so che non passerà. Vagherò lasciando cenere, e intanto il tempo passerà. Ti cercherò senza arrendermi, forse sbaglierò, ma saprò ritornare a salire in volo. L'ombra dei miei passi segnerà la mia ricerca della libertà. In ogni miraggio vedo che come me, profeti, santi, uomini. Forte poi un vento si alzerà e quelle orme cancellerà. Ti cercherò, non mi perderò. Nella notte che c'era stelle cadenti mai viste ancora, l'ombra dei miei passi segnerà la mia ricerca della libertà. In ogni miraggio in ogni